cubo. Come fa a essere cubo quell'apparato che esce bene come il 3009 esce? È tutto più forte esce. Marco, cosa vuoi che ti dica? Se sentissi Gianni potrei valutare meglio. Ma Gianni non risponde. Beh, ieri quando ha provato stava parlando però attaccato al microfono, e non puoi stare attaccato, lì devi stare minimo a 10 centimetri. E quando metti il turbo modulatore minimo a 20 centimetri, capito? Non è un mic normale, quello è un mic amplificato di serie. Più la radio, quando è uso normale, ha il compressore già inserito, capito? Gianni? Mimì. Attenzione, Rata Pignana, ci sei? Ehi, Gianni, ti sto ascoltando, ma tu sicuramente sei attaccato al microfono già. Di parlare minimo 10 centimetri dal mic. Parlano così, attenzione, Rata Pignana. No, no, io sono lontano, guarda, come sta andando? Beh, bene o male la voce è tua, sì, c'ha toni leggermente più bassi perché tu hai toni più bassi modulando. E il macchiaghina a manetta, sì, ma sì, posizione normale, sì. Normale, normale, serato c'è il bip, no? No, non c'è il bip, c'è solo se lo vuoi. Lo puoi mettere sia in posizione normale sia in posizione turbo ondulatore. Aspetta. È bello. Che è un po' comodo. Figlio di chissà. Che è bello. La puffa. Già, è tanto. Allora mi sono trovando il apparato. Come te, che è bene. A casa sono. Però fare un po' di tutto. Ma come sta? Già sta, dai. Tu guarda. Brava sta facendo, sta vivendo, sì. E lo facciamo bravo. Va. Marco, io ho notato che se tu lo metti al minimo, bip non c'è, invece se lo metti in posizione turbo c'è anche bip. Noni, se lo metti tutto a sinistra, no? Fai uno scatto a destra, uno scatto, entra anche il bip già. Ce l'ha il bip sia a posizione normale sia a posizione turbo, se vuoi, se no non c'è. Adesso come sta andando? Guarda, io sono a 10 centimetri. Sì, certo, è strana. La voce tua è un po' strana già, non è la voce solita del Galaxy. Forse tu hai i toni più bassi e con te non rende tanto. Ci voleva un microfono con tono regolabile, tipo l'MBP5, però non l'hai voluto. Avresti provato con toni più alti, capito già. Quindi ho ragione. Sì, cioè questo riceve più acuto questo baracchino, però c'è dire che lui non è come col Galaxy, non è limpido e squillante, capito? Però quell'apparecchio dovrebbe essere più limpido e più squillante. Si vede che con la sua voce non rende tanto. Io ho detto a Gianni che col Magnum suo, ma quello li fa 7-3. Sì, è vero, però già. Non sembra nemmeno amplificata, ma che viene a manetta, sì. Ma è strano, guarda. Ma spinge di più. È perché la voce è più acuta, capito già? Guarda sotto. Prendete, va. Buonasera, Gavà. Luca di E. Ah, bene, vabbè, Massimiliano. Ciao, Cla. E se ti conosce nessuno, chissà vuoi da orco che fai. Allora, Olu, che è una cosa semplice e semplice. Lo stavo portando al computer. Ho detto, esci che l'ho per vedere se è sporco. L'ho aperto. Ho staccato i fili che si possono staccare, non quelle piatte grandi, che non so cosa siano. Ripulito, ripiantato, sta funzionando. Poi dimmi tu. E dove si tra? Allora recuperi quello che ti serve. Ma te lo c'ho tutta la sera acceso per vedere se sta andando. E sta andando, c'ho il cratere inserito, ma sta andando alla grande. Alla grande, adesso. Se io avessi avuto il sistema per poter recuperare quella roba e metterlo dall'altra parte, l'avrei fatto. si chiama, Stefano, che fuori rientra verso lunedì. Se funziona sino a lunedì siamo a posto. E a trattare quello dobbiamo fare, però non ce l'ho adesso, io ho tutta la roba che mi serve. Però l'importante è che stia funzionando, e quindi eravamo preoccupati con Luca che fosse partita la scheda madre, e invece sta funzionando alla grande. Mi ha dato solo una pulita e basta, anche perché era abbandonato da quando ho comprato quello nuovo, sta funzionando. Quindi se continua a funzionare così, per Stefano è una fesseria portarmi tutto sull'altro computer, capito? Avanti Massimiliano. Giulietto, 9.20 ci arriva, 9.25, cosa vai? Ah, ruote e triti? No, negativo, come lo fate? Ciò, e non posso neanche agganciarla su questa cosa. Pronto! Ciao Claudio, Luca, poi ti ho sentito, mi è sfuggito mezzo del Natalino. Ma che ce l'avevi, Marco? Io non ho detto niente, mi, era Gianni. Cosa? Allora vedi che sta uscendo bene adesso. Prova già. Lo grida, va su col magno, messo 9.80. Ui, 10-0 le fa. C'è il magno, Marco, 9.80. Marco, ammettilo, 10-0 le fa. Questa è la modulazione di Gianni. Con quella là era, non mi piace. Sì, è vero, questa è veramente limpida, l'altra non... So perché non, poi non spinge, non la sento spingere io quella modulazione. E poi per la voce di Gianni lo fa più cupa, capito? Sì, non è adatto a lui quell'apparato, dai. No, sento offesa, per carità, ma lo porti qua e io lo faccio rullare alla grande. Però la modulazione di Gianni è questa, questa è modulazione. Questa è radio, 10, quella là non mi piace. Sì, nemmeno a me. L'aspettavo più squillante, invece no. Marco, comunque il frequenzimetro mica manca lì. No, c'è il frequenzimetro, bisogna abilitarlo con un certo tasto, o con un, forse è meglio dire, una combinazione di tasti. E comunque non è un frequenzimetro, è un indicatore di frequenza. E cosa, non è la stessa cosa? No. Frequenzimetro ti indica in tempo reale la tua frequenza. Un indicatore di frequenza è come l'indicatore in canale, ti indica la frequenza teorica del canale, ma non è un frequenzimetro reale. Quindi se sei spostato, col frequenzimetro te lo indica, con l'indicatore di frequenza no, capito? Ah ecco, allora non gli manca niente, scusa, se si può mettere quello lì con l'indicatore di frequenza di CD non gli manca nulla, perché io sono andato su internet, ho visto l'apparecchio in funzione, tutto quanto, ed è quella dicitura lì che gli manca, quei numeri e basta, che chiamano come voi indicatore di frequenza, frequenzimetro, manca quello lì e basta. Sì, te l'ho detto, devi fare forse function più un tasto, come ne ricordo già, fare function più cal e compare l'indicatore di frequenza. Ma lo ricordo perché non lo uso mai. Ah, non manca nulla, scusa, le diciture non ne mancano. No, quello, frequenzimetro si vede l'indicatore, quello che manca è lo smitter digitale. Ma quello che c'è sotto. Sì, l'ho visto quando sono andato a vedere il video, dai. Sì, ho visto che c'è lo smitter, ho capito. Che poi, vabbè, digitale fa 1, 3, 5 e 9, gli manca il 6, il 7, l'8, passa da 5 al 9, cioè, fine, va, io quella lancetta. Devi andare in tutto, dai. Ehi, vabbè, perciò ne hanno messo due, perché almeno quella lancetta ti indica, in suo modo, il segnale vero, grosso modo, perché poi non è che siamo precisi, dai. Quindi l'avete bocciato, comunque l'apparato rumori non ne fa, io l'ho tenuto abbastanza acceso stasera, non fa nessun tipo di rumore, né niente, e il resto va bene. Forse già, bisogna mettergli un microfono adatto alla presa a quattro poli, Eppure, ma sia la presa a quattro poli, ci vuole il microfono che esca più acuto, cosa ne so, l'MB più 5, bisogna farlo toni acuti, non lo so già. Bisogna trovare la, il microfono adatto, ma non lo so se, se ne vale la pena, dai. Sì, a cosa ti stavo dicendo? Praticamente che questi apparati qua, mettendoli i microfoni amplificati, le devi togliere tutte quante le potenze, non li puoi mettere i processori eccetera eccetera, tutte queste cose qui, ecco, non li puoi mettere niente perché se no fischiano. Beh, l'MB più 5 qua lo mettevo, oh, i poli sono giusti, cioè la piedinatura del, del microfono è giusta, capito? Invece quello tuo che hai messo ieri, l'M1000, no, non era piedinatura sua, quello entrava nella, nelle, nelle, nella bassa frequenza, mi, come fosse un autoascolto, ecco. Quello del coso, non mi pare, si non so se va bene, e un'altra ancora, quello della cobra. Vediamo un po' quale va meglio, aspetta. Ma la piedinatura è giusta? A 4 sono, aspetta, proviamo. Vabbè, 4, ma i fili sono diversi. Proviamo, dai. E beh, Natalia, sei riuscito a ingrandirlo? Cosa, il pisello? Ehi, a Gianni. Questo qui è quello del cobra, come va? Forse leggermente meglio. Oh Claudio, cosa ne pensi? Sempre cupa, cosa meglio, sempre peggio. No, peggio no, è la voce sua, non lo so. Io so solo che il DMC 507 esce acuto, è proprio diverso dagli altri, è diverso dal DMC 500 del, della Midland, capito? Non lo so. Ma io passo a porta, no? No, adesso no, dai. Ah, c'è il burino mi a casa, vi. Oh. Ho fatto male ieri a non portarlo già, ho fatto male, non ci ho pensato, comunque, Claudio, capisco il metro anche di valutazione dell'altra volta, ho attaccato lo ZG B+5 a manetta ho messo tutto, è un mostro bellissimo, invece ci hanno sentito Massimiliano e Eugenio. E con l'MB più 5 dice che strappava troppo, era troppo amplificato. Non lo so, tu mi hai detto bene e loro mi hanno detto male. Chi dare ragione? Non lo so, vedi tu, guarda come va questo qua. Io ho detto come l'ho sentito io, poi. Se dopo se te l'ho strappato, non lo so, non l'ho sentito bene. Guarda con questo microfono, questo è quello del Galaxy, come va? No, cupo, cupo. Cupo già. Se ne sono tre che vuole proprio uno che andavo, da, ho capito, aspetta un attimino, siamo con l'amplificato. Che strano però, ho col tempo diventato cupo il modulatore, non riesco a trovare altre spiegazioni. Sì che anch'io uscissi così e nessuno me l'ha mai detto, mi. Dai, perché al fine i controlli sono sempre molto relativi. Certe volte dicono sì bene, poi ti autoascolti ed è una cagata. Io ti ho sempre detto che andavi bene, anche l'altro giorno abbiamo fatto la prova e ho detto che andavi bene. E tra l'altro da te, a casa tua, non devo togliere il noise blanker. Modulando già devo togliere il noise blanker del 440 perché altrimenti strappa. Quindi devo cercare di stringerlo il più possibile, capito? Cazzo, è lo stesso apparato, cioè, allora è la voce, te l'ho detto, sono due voci diverse. Allora era meglio lasciargli l'MB più 5, mettere i toni acuti, valutare, no? E alla fine non l'ha voluto, lui ha detto che non lo usava, pazienza. Vediamo cosa può adattare, dai. Non lo usaccio. A me non piace quella modulazione, è molto più bella la sua. Cos'è Natalia? E come hai fatto? Dov'è? E adesso lo faccio, va. Anche la talina si intende di cluster. Molto più di me sicuramente. io e Fruscetti. Qual è il DM1000? L'abbiamo provato ieri, fisca quello. Ciucucciù, ciucucciù. Oh, se ne intende più di te. Caspita, non è il radiatore, lui se ne intende più di te. Com'è possibile? Perché so usare bene il computer? Io il computer non lo so, non l'ho mai saputo usare. So fare quelle cose necessarie, ma non mi interessa. Lampasi tutto già, metti il magnum. Eia, eia. Oh, io non ne faccio, anche se ho la vecchia SWL, non ne ho fatto. Io ascoltavo ma senza fare diplomi. C'avevo antenne da macchina appunto adatte alle varie frequenze, però diplomi non ne ho mai fatto. Cosa devi mandare? Cartolina? Cosa devi mandare? Sono a 5, caspita, sì, ripeto, o quel modulatore è peggiorato col tempo, o è la voce, ma Gianni non è che abbia la voce cupissima, no, bassa, bassa di tono, io lo chiamavamo la voce calda della frequenza, l'eccomi, prima era un eco leggero, discreto, e poi l'ha fatto, così l'ha fatto, ha fatto uno schifo. Oppure lo chiamo cacciavite veloce, capito? Bravo, che frizzi. Ma voi non facciamo la reggenza. No, dai, continuate, mi sto preparando per far portare il cane. Se ci siete, li prendo dopo, vai. Eia già, ma Claudio, e anche Gianni deve portare il cane. L'ora, che ora sono? Non leggo niente, non vedo manco... È in ombra il coso, che ora sarà? 8 meno 20 ci sono già. Eh sì, 8 meno 20 ci sono. Ehi, qua vedo le lancette al buio, non... Sì, sembrano le 8 meno 20, fatemele confermato, va bene. Ui ui, lo rottamiamo già, lo sbatto a terra, vedrai cosa gli faccio col baracchino. Quelle sono già, come le chiamo io, le americanate. Le americanate, capito? Allora, forse dandola a Pomponio, che ha la voce da Topo Gigio, allora esce bene. E ha la voce da Topo Gigio, capito? La voce acuta. Chi è avanti, attenzione. Chi è avanti? Avanti, chi chiama Sassari? Da dove stai modulando? Che ti ascolto molto basso, però ti ascolto, dai. Da dove moduli? Capa, c'è un video. Barra 2, dove ti trovi in barra nautica? Cappa, dai, ho capito, provincia di Lecce, dai, vai, Sassari, Nord Sardegna. Mi hai sentito, ho capito, barra nautica, quindi sei in barra mobile, non in barra nautica. Cappa, ti ascolto, guarda, con un livello a livello QRM, un Santiago molto basso, una radio bassissima, comunque ti saluto, e già di doppio lungo dalla Sardegna, se mi stai ascoltando, ti saluto, non so se Marco ti ascolti, a parte la Capignana. No, no, niente, ho provato a levare lo squelch, ma nulla. Nulla. Lì, ma in che coordinate è lui? Lecce? Caspita. Cappa Lecce, Lecce. Ragazzi, vi voglio avvisare che c'è un contest GT, mi sono dimenticato di dirvelo, che parte da Roma sul canale B. Ma in banda laterale? No, non penso, guarda, l'ho visto su Facebook. Sì, già si sentono domani in inverno, mi. In AM poi. Vabbè, si può provare. Adesso perché sei tutto saturo già? Ha messo lineare. Beh, c'era Lecce, stavo parlando con Lecce. Ma quando attacchi lineare passa la potenza di ingresso sul lineare, se no ti satura. Sì, ma la contata non satura, sempre la Cosa hai detto? Il Donna Marta non sappia che io ho provato, ho chiesto se non detto che Donna Marta non sappia. Sa, la sola zona, hai capito? Non ho capito. Adesso stai parlando con Lecce? Ma adesso no, ma adesso Lecce non ci pensa. Non lo so, Lecce ci sei ancora? No, che se non fa Lecce è sacco, perché io non comprendo nulla. Io non ce l'ho attaccata. Adesso l'hai attaccata. Io come sto? Vabbè, e ci andiamo, facciamo un passeggiatino, ci sentiamo, statemi bene. Mi pare che fai caro a zero di uscire. Vedi, c'è un bel rimando io oggi. Quando io ti scalaccio lì, fammi una bella roba. Ti ho preso due rifla, però ancora non hanno fatto effetto. Ho preso latte col miele, niente. Adesso vediamo stanotte cosa buttare giù. Fa un bel male, c'è la gola tutta infiammata. Speriamo non venga la placca, se no mi dà la febbre, tocca rimanermi a casa. E Nagio ancora più bene rimani a casa. Oh, yeah. Sì, vabbè. Riprendi, invece mi hanno chiamato dal lavoro e mi hanno detto che devo rientrare giovedì invece che rientrare lunedì. Beh, normale. Chi si azienda a fare visita a Gerugiani? Senta, se mi ha mantenuto fino al 18, perché adesso devo rientrare il 16? Io facevo il 16, 18, poi il 19 la domenica e il 20 era lunedì. È rientrato il 20 direttamente. E perché dice che è stato fatto male un conteggio, forse vabbè, dopo lo rivediamo il conteggio, perché io venerdì ho lavorato e quindi almeno fino a venerdì mi toccava. Lascia perdere già, se no non nasce un libro pure. Va pure. Se ci siete dopo ragazzi, vado a portare il cane, ciao. Ciao, ciao, avanti Marco. Ciao Claudio, buona passeggiata, portati la sciarpa a me. Per la gola, se non ci vuole il mio duro versione per bocca a me. Non c'è io da prendere, ma. Anche quello già va bene, dai, a dopo. Dimmi Gianni. Ho detto che cosa c'è di altro apparato da prendere. Guarda, da vendere. Allora io ti dico quale non sto usando. Non sto usando quello che hai tu. Quello Albrecht Ultra Force, ma ne è sceso anche quello dalle balle. E poi sto usando meno l'equivalente del 3009 col frequenzimetro. Il candidato era quello da vendere, l'altro è invendibile perché c'ha quel difetto manolaterale. Insomma, gli unici andati male sono proprio quelli americani o di derivazione americana, capito? E sono le americanate. Però vedi, gli altri vanno bene, l'S9, 980, quelli li hanno fatti un po' troppo esasperati come modulazione, non lo so. E comunque sì, è cupo. Forse è diventato cupo col tempo, non lo so perché. Io ho la voce più acuta, anche no. Tu ti dicevano che avevi la voce calda della frequenza, magari per quello esce cupo. Anche col Kenwood, ti ricordi che uscivi cupo? Invece con lo Magnum uscivi bene. Sì, pazienza. Mi spiace, ma non posso pensare perché non va bene. Aspetta che stavi togliendo quelli che vanno difetti, da che non ti piacevano, perché state sentuti che vanno tanto. No, magari, a parte lo smitter, mi immaginavo che uscisse più acuto, boh, te l'ho detto, o col tempo è diventato più cupo, è peggiorato col tempo, ma... un giorno Claudio mi dice che esco bene con l'MBP5 e invece Massimiliano e gli altri dicevano che andava male, bisognava abbassare l'MBP5, quello è vero, abbassandolo era meglio, però non ne vale la pena neanche più di usarlo già, infatti lo metterò da una parte, lo cannibalizzerò, gli leverò il microfono, tutto quello che si può togliere, la staffa, non lo so. Ma no, non mi viene la voglia di usarlo neanche in macchina mi metterò il 3009 quando lo userò in estate, no, metterò l'apparecchio bello, il 3009 col microfono ZG per esempio dalla macchina, capito? Non metterò quello. Poi se esco basso mi metto il lineare, ecco, tutto lì. Ma sì, ma in effetti questa parte americana forse perché sono troppo stili, non so. Ma non è che tu magari aprendo quello lì hai toccato qualche cosa, per, quando ne hai aperto le meccine hai toccato qualcosa alla preventiva, No, no. Quando l'ho aperto anni fa, due anni fa, quando era tre anni fa, ma per esempio il portatore Sandro dice che andava bene. Per il frequenzimetro, chiamiamolo così, te l'ho detto, bisogna premere F e poi CAL, mi pare. Adesso funziona più CAL. E compare il frequenzimetro, l'indicatore di frequenza. Anche se per la 27 è meglio mettere i canali normali. Vabbè, già pazienza, dai, tanto mi... Me l'immaginavo però, ho detto, io tornerò a prenderlo quell'apparato. Marco, la mia intenzione era di prenderlo, ma diciamo, te l'ho detto che se mi volevo mettere là, ti attaccavo direttamente, ma... diciamo che se non esce bene cosa lo prendo a fare, per cui farmi dire se così qua, se là, farmi riparare. No, no, no, infatti. Quello doveva andare bene, col microfono suo già, doveva uscire bene, o quantomeno passabile. Poi si poteva ulteriormente migliorare, ma anche a me non è piaciuta niente. Non mi è piaciuta appena l'ho sentita. È strano però. E cosa vuoi ti dica? Magari con la mia voce più acuta esce meglio, con Pomponio che ha la voce acuta esce meglio, cosa vuoi ti dica? Era come soffocata, ha ragione Claudio, era come soffocata. Eppure il trimmer della M è aperto, capito? Non è chiuso, è aperto. Mi doveva spingere bene e uscire anche più acuto. Io con il regolatore che hai fatto tu l'ho lasciato, l'unica cosa che ho toccato è come si chiama le potenze, là, perché ti ho detto di abbassare e di alzare, che ho toccato quello di basta. E il vecchio jack non era proprio al massimo, l'ho messo a manetta, ma non ho fatto altro. Ehi, già, appena posso vengo a ritirarlo, anche domani, vediamo. Se non usciamo, di pomeriggio, di sera, anche domani. Vabbè, dai. Solo noi, ma anche tu devi portare il cane già. Ma io non ero, io mi aspetto che arrivino le donne qui, ma... E io magari chiudo prima perché... non ho visto nessun telegiornale già, non ho visto telegiornale, mi piacerebbe vederlo, non ho visto né quello della sera né quello della mattina, infatti sta per iniziare, se non è adesso iniziami, capito? E quindi mi sa che vado quasi, ti conviene andare adesso già, ti levi la seccatura, così poi rientra Claudio e vi fate una chiacchieratina veloce, dai. No, io una volta che spengo qua non riuscito più. Me ne vado al televisore a guardare la maglia dei figli. Perché se no le creatole lacrimali e poi non funzionano più. La dei Filippi. Mamma mia. Ah, perché tu lo spegni e accendi, cioè... No, qua rimane acceso. Una volta che lo accendo lo lascio fino a notte... Fino a notte inoltrata, capito? Non so che chiami qualcuno, che entri Pomponio, che voglia fare prove. Sto accendi e spegni, lascio acceso. Che adesso lo spengo all'una, alle due, alle tre, dipende da quando me ne ricordo. Certe notti è rimasto acceso tutta la notte, me ne sono dimenticato e l'ho lasciato acceso. Tanto c'è lo squelce, qua non senti nulla. Io, ricordati, io in 27 uso sempre lo squelch, levare il rumore e il soffio di fondo, perché è inutile lasciarlo aperto, capito? Sì, ma se ci sono segnali bassi non li ascolto, con lo squelch di sinistra. Io lo uso in FM lo squelch, di più. In AM no, in AM se ci sono segnali bassi non li ascolto, se ti chiama qualcuno basso non l'ascolto. No, pazienza. Cioè io escludo quel REM, il soffio, no, che è Santiago Zero. Se uno arriva a Santiago Zero, tanto non l'ascolto. E pazienza. Se uno è zero, pazienza, peggio per lui. Non ci posso fare niente. Certo non lo alzo mica a Santiago 2, 3, 4, non l'ho messo tanto per levare il soffio di fondo. E poi te l'ho detto che è basso. Per esempio questo a me non mi arrivava. Questo da Lecce era inesistente il segnale, per cui non ho perso nulla lì. E non credere che io qua a QRM non ne ho capito. Io col garage QRM niente, proprio a zero. Ma nemmeno qua ce n'è. Queste sono giornate molto silenziose perché è inverno anche, no? Ma in estate invece è un macello perché ti arrivano russi, spagnoli, francesi, poi manda laterale, non te ne dico, sui canali alti, no? Sulla tripla 5, lì è un casino. Pensa quando fra qualche anno ritornerà l'attività solare forte, allora sì che ci divertiamo a far VX, lo sai. Adesso non mi ricordo quanto ci vorrà, però ogni 11 anni c'è il ciclo solare, no? Il picco solare. E la propagazione è proprio massima quando c'è il picco solare. Capito? E adesso quando dovrebbe venire questo solare? Eh già, ci vuole un po'. Mi pare che nel 2010... No, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Devo guardare internet, devo cercare ciclo solare ogni 11 anni. E mi apparirà la data del prossimo ciclo solare. Poi naturalmente la propagazione in estate c'è sempre, primavera estate bene o male qualcosa c'è, però il massimo è col picco solare, come Nathalie. Boh, non ti capisco Nathalie. E adesso non è chiaro, cosa ne fa Nathalie? Nathalie, tu non devi parlare fuori. Quando parli forte, esci così, mi. Devi parlare piano. Eia, ehi, qualche parola. Basta sapere il lessico solito. Però male, sai, segnale, per dare il segnale, la radio, così, la zona, meno male, capito? Se quello parla però di cose più sciolte, di cose normali, allora è un casino. L'amico tuo era bravo, l'amico tuo era bravo a parlare in inglese, quello che lavorava in quello giusto. E Salvatore, da come veniva il nome, l'ho visto un paio di volte a Porto Torres, sì, io. Stava parlando Natalino. Ho detto Salvatore, l'ho visto un paio di volte a Porto Torres. Per esempio già, fammi una chiamata in inglese, generale, una chiamata generale, come se stessi chiamando per gli ex. No, no, io in inglese proprio non ne so parlare. Ah, niente, niente. Ma è facile, per esempio, basta imparare le solite parole in croce. Tipo attention frequency, division 165, calling and standing by. Sì, 9 più 10 si dice 10 over 9, 9 più 20, 20 over 9, roba del genere. Beh, bene o male, solo che quando vogliono parlare del più e del meno è un casino, capito? Lo spagnolo è già più semplice, sembra italiano quasi. Il francese non mi piace. Non saprei come chiamare. Attention, la fréquence, la division, un, com'è, 165, un, sis, senc, boh, appel, chiamata, sì, appel, non mi piace il francese, è una lingua da finocchi. Poi il tedesco non te ne dico, il tedesco è un casino. Attenzione, attenzione, amici, tutti lì della Sardegna che ti fa bene, sì, è la stazione del Carromeo della Via di Sassarini. È ottimo, sì. Ma tu hai studiato francese? Qui, qui, qui. Anch'io, ma è come non averne studiato, lo sai. Mi è entrato più in testa l'inglese, anche perché I manuali dei barchini, no, certi sono in inglese, e non sono difficili da capire, cioè uno deve capire, cioè quando ti dice lo squelch serve a, diciamo, silenziare il ricevitore, bene o male si capisce quelle cose lì. Francese non mi piace, era una lingua moscia, io alle medie avrei preferito molto di più inglese, purtroppo mi hanno dato il francese. Io ho contato perché i cugini di mia moglie sono tutti francesi, quindi c'è già cugini francesi, quando vengono qua, se tu non li parli in francese, se ne stanno in una pulita non parlo. Quindi per farvi le domande dovete fare in francese. Però nota una cosa già. Quando tu chiami un francese devi parlare necessariamente in francese per i DX. Lui non si degna mai, non si abbassa a parlare italiano, capito? Il francese parla francese e spesso il tedesco parla tedesco. Cioè se tu vuoi parlare con loro devi parlare la loro lingua, loro non si degnano mai di parlare italiano, di parlare spagnolo, capito? Sono molto nazionalisti per la lingua. Basta non parlarci. Come fa Claudio? Allora, io non ci parlo e dico di prendere le gomme della vostra mano. Ma Claudio non sa lingue, come li fai di ex mandamattoriale? Con la lingua. Oh, je suis Claudio, d'appel. Attention mon ami, attention mon ami Claudio, c'è così lì della Salmeni che ti fa perdere, vicino alla stazione del Stato mio. Fino a lì ci siamo arrivati tutti. Il problema è quando ti parlano in francese, tu devi rispondere, capito? Ti fanno le domande, cosa stai usando, quali sono le tue condizioni di lavoro, è lì il problema. Quindi per evitare questo non ci parlo e basta. Io parlo solo con quelli che so parlare. Per il resto invece buon viaggio. Evito di fare figure di cose, capito? Come fa qualcuno. Sente l'inglese si mette a parlare lo spagnolo, sente lo spagnolo si mette a parlare l'inglese. Allora Natalie, grazie. Ma che ti cagli fai più bella figura. Ah ecco, Claudio, quando fai un DVX è meglio anticipare le proprie condizioni di lavoro, perché magari se poi te lo chiede è un casino. Devi dire l'apparecchio, l'antenna, sai, bene o male nella lingua giusta. Poi se non sai dire, che ne so, la sigla del presente 3009 in francese, come sarà? 3009, 3900. Allora dici i singoli numeri. Bois, nef, 00, come, oh, 0 in francese, come 00. 0, l'ha detto bene. Ah, ti parlano quasi di ex con i francesi che è in oggi. Ah, e di ex per i mattoni sono a distanza di 7.000, 8.000, 10.000 km. Che se ti metti a fare di ex con un francese. Con un francese ci parlo in diretta, no? Non è di ex. Aiuto, fate la bravi. Ma noi stiamo parlando di baracchini. Noi abbiamo potenze limitate, antenne limitate, capito? Io cosa c'ho? 100 watt massimo, non posso arrivare in Giappone, magari arrivo, ma chi li capisce quelli? Poi parlano, certi parlano veloce l'inglese, proprio parlano veloce l'inglese e non capisce una parola. Bisogna parlare piano, stanire le parole, non sono tutti bravi in inglese, no? Come fosse una lingua madre. Ah, è diverso per noi quando dai il nominativo, le dai il controllo, 20 dB overnight, ciao, serie di tri, bye bye, arrivederci, buon viaggio, il collegamento è fatto. Poi qui riesciamo a parlare la lingua, chiaro che si trattengono perché lo sanno fare, ma chi non lo sa fare i collegamenti li fa lo stesso. Non è che devi dare molto, chiami, già so chiamare. Il nominativo in inglese, quindi chiami, se ti risponde dai il segnale e basta. Eviti di fare QSO vero e proprio, capito? Poi se ti chiede le condizioni di lavoro già non sono così difficili da dare. In inglese, francese non è una lingua che mi è mai piaciuta, assolutamente. Comunque, quelli che lo sanno fare lo fanno, io non so fare, non lo faccio, però i miei collegamenti ce li ho, li sto tutti controllando al log, sono anche abbastanza distanti. Va bene, va bene. Cazzo, sono fermo con log al 4 maggio 2016, fatti un gol. 4 maggio 2016, l'ultimo collegamento che ho fatto. L'ultimo collegamento che ho fatto. Qual è, Claudio, il collegamento più distante che hai fatto? Intorno ai 12.000 km. E che città? Vado a vedere adesso. Vado a vedere, ma già ne ho lontani. Aspetta. Ce n'è, aspetta che accendo la luce, non vedo un altro. Mi metto gli occhiali, intanto mi sentite lo stesso. Non sto guardando questo, Namibia. 51 whisky. Ok, Nina, Argentina, Brasile, Georgia. E sono fermo al 2016. L'ultimo collegamento ho fatto 4-5 2016. Victor 51 whisky. Non parlate con l'Africa, amiche, vi attaccano l'Ebola via radio. Quanto è brutto questo log, un'altra ricassa, tutto ammontonato. Vabbè, questo è Stati Uniti, Russia, Grecia, lì, Sudafrica, gli 20 metri. Russia, la 3 Golf, Belgio, Svizzera, non sono messo male, ovviamente. Adesso bisogna recuperarli tutti. Vabbè. E quindi il cane l'hai portato già? Adesso fa. Ma l'ho portato anche dopo pranzo, verso le 4:30. E io l'ho portato stamattina alle 9 e poi l'ho portato prima di pranzo, verso 9:30, capito? Adesso è risceso, ho fatto nuovamente tutto, pipì e popò. Sono molto tranquillo, dopo la mattina sto lavorando, quindi mia moglie minimo lo porta alle 10. Oggi non ha potuto mangiare nulla, chissà, parlo già l'ho lavorato, se ne è andato. Ma poi già l'ha vestito, se ne è andato a mangiare. No, io ho fatto la pasta oggi, la pasta con la carne macinata e il prosciutto crotto. Fine settimana, sono con un festival, ho detto mangia solo, esclusivamente crocchette, ma è aumentato un bel. Adesso mi ha preso il coso Mario. Oh, devi fare la registrazione 2017, l'anagrafe canina fatta. Non ce la farla. Ogni anno devi farla. Ricordate. Ogni anno. Se è tutto a posto lo comunichi solo, capito? Però io ce l'avevo ancora, era residente nella documentazione della gara canina ancora da Mario, e quindi abbiamo fatto adesso, ci ha preso i documenti, giovedì l'ho fatto, infatti l'ho portato a Ria, stavo leggendo, diventa un cresciano, età, tutto, capito? Certificato anagrafico canino, albo di iscrizione, anagrafe canina, nome Filippo, presidente di Agora Malfa, Bimbo Ba, Martino Magenetti. Come si fa il comune? Via, anagrafe canina, c'è un ufficio abilitato. Ma dove è? Andiamo su. Il mio è stato denunciato quando gli ho messo il microchip dal veterinario e la fanno fatto tutto loro. Controlla che sia aggiornato. Ho detto, proviamo a vedere l'aggiornamento. Se ti ferma la zoofila, che ce l'hai in macchina, eccetera, che ti ferma la zoofila, vuole i documenti aggiornati. Se non ti va a fare trasmissione. C'è un libretto, c'è tutto quanto, io non mette contravvenzione di nulla, che è vaccinato in tutta. Sì, ma deve avere anche il certificato di iscrizione all'anagrafe canina allegato al libretto sanitario. bancario, ha libretto, vabbè tu non c'hai il pedigree, io ho tutta la cartella, dove c'è il pedigree, ci sono tutti i documenti. E siccome non avevo l'iscrizione, o perlomeno ce l'avevo, ma non era residente qua, ma bensì a casa di mio genero, abbiamo fatto il certificato nuovo, capito? Ma io l'ho già fatto, il certificato all'anagrafa carina è già stato fatto quando ho fatto il microchip dal veterinario, tu l'hai fatto solo per quello, non è che perché ha cambiato residenza. Se te lo gioco a dicendo, abbiamo aggiornato, in Messico c'è Minatari, in Messico c'è, in 160 metri, altri sono morti. No, no, 1830, cazzo, non vedo un cacchio, non vedo niente. In Messico c'è 1830. Ma e tu i gatti vaccinati ce li hai, Marco? Marco, fra cadete che c'è. Claudio, invece informati che su internet ho visto una cosa, che c'è questa assicurazione che praticamente se il cane, quando stai male, cosa, ti danno la luce e tutto quanto, poi quando muore pagano il supplimento, è un'assicurazione per i cani, dai. Però non so se sia obbligatorio o no, 120 euro all'anno. Non so, io sono iscritto a Dog Sitter. Io se voglio lo chiamo a Mauro, viene, lo prende, lo porta a lavare, poi me lo riporta, capito? 10 euro. Non si sa mai, se magari sono malato, io non ci sono, mia moglie non può uscire. Chiamo, viene, prende il cane, lo porta a fare i bisogni, poi te lo riporta a casa. 10 euro a volta? A ora. Di più delle cose, prendo. Non so, ti dico, c'ha la macchina, capito? Viene con la macchina, è quello che c'ha il, è che lo chiamano taxi, che fa anche il taxi, non il taxi, sì, per lo taxi driver, cos'è? Taxi dog. Taxi dog, benissimo, c'ha un ufficio, e ce ne sono un bel, non so quanto ne lasciano l'estate, ehi! Non so se ne aveva 12, e tutti di bella stazza, a me. Ho messo l'attività in vendita, lo so. Perché sta facendo altro. Io avrei voluto fare allucinante, il comune di merda. C'è uno spazio qua vicino a casa, tutto recintato, con alberi, bello. Sono entrato dentro, vorrei essere spogliatore, avrei diserbato tutto, disinfestato tutto, avrei fatto messo un gazebo, tutte le ciotole, a giocare i cani d'estate. Parking, dog parking, no bello, mia santa, bello quel posto già, bellissimo, molto bello, tutto recintato, abbraccia la strada dietro, di via Milano, e più la strada di via Oramalfa, bello. Molto bello, fresco, estate, ma fresco, c'è un fresco, tutti lì andiamo, capito? Aria comunale abbandonata. Su Facebook ho visto il continente questi dog park che c'hanno fatti, c'hanno anche le piscine, con le piscine grandi, enormi, dove i cani si possono buttare, farsi il bagno, giocano, fanno. Ah, sai quanto si divertono, si tuffano proprio davanti a questa tipa per far vedere quello che hanno loro, capito, nella sua città. C'è questo dog park, il parking che dove c'ha le piscine proprio. Ma che non si può fare? Non si può fare. Ci sono gli alberi, quelli grandi, belli, lascia fresco, quelli piccolini, li tagli, pulisci bene, mettono in quelle piscine non grandi, capito? Dove con lo scivolo i cani si divertono. Bellissimo, bellissimo. Ma poi c'è già il posto, perché è abbandonato. Andiamo tutti lì a portare i cani in estate, ti ripeto, c'è un fresco, io mi siedo, mi fumo una sigaretta, lo muovo, c'è il cancelletto. C'è tutto pronto, tutto recintato, non c'è manco da recintare niente, nulla. C'è da mettere l'acqua, E un paio di lampioni per la luce e basta. Non c'è a fare niente. E andate una pulita, boh. Comune che fa schifo, che è il sindaco, voi pigliate fucilato, che c'è gente senza lavorare, quello è un lavoro, capito? Almeno per due o tre persone, invece non fate un accidente. Poi c'è la casa di accendere, parco qui in casa, però ci sono sempre i cani mari, cose, si bisticciano ogni tanto, io non l'ho più portato. Quando era piccolo portavo, ho fatto amicizia anche con alcune persone, ci trovavamo e cose. Ma poi non l'ho più portato dalla volta che come è entrato, perché un cane nero ha cominciato a ringhiarlo, con ringhiato gli andava a fianco, si è ringhiato la testa. E alla fine Tesla si è girato e lo stava mordendo. Vabbè, però lo lasciano stare solo per fare, stanno misurando solo la loro potenza, la loro forza, eccetera, eccetera. Non già lo si bisticcia, lo lasciano stare, ma sei sicuro? No, non si bisticcia, non credo, se non lo tiro per l'affare, ho fatto il tempo in tempo a testa, non prenderlo per l'affare che c'ha nella pettorina. La maniglia che c'ha, ho preso da lì e l'ho alzata perché sotto stava l'attaccato. Un bel imbecille io. Noi bisogna stare attenti con il cane, te l'ho detto. Io al mio adesso gli ho preso la museruola, quella cosa, all'accio, capito? Una casa di animali. E quando esce gliela metto, secondo me va, perché purtroppo è così, si gira subito, soprattutto per cani grandi, maschi, no? Cani piccolini, si gioca, se ne accorge, sono più piccoli di lui, eccetera. Per cani maschi grandi non le dà molta confidenza, se non le danno fastidio lui tira dritto, ma se vede che lo abbaiano e cose, allora abbaia Boruetto e ti tira proprio a combattere. E io non aggiungo di andare a finire, allora muce ruolo e via. Il caso è tale quale, uguale a quello che così come gioca con i piccoli, gioca con le femmine, ma si sono masci, non vuole... No, proprio me ne accorgo subito, perché tiene la coda dritta e alza il petto quando si cade, quando non li muovi devi, alza la coda dritta la mette, il codino che c'ha, e poi il pelo di cocchè. Oh, cade, là, io vado, saluto anche Marco, se c'è, tutti gli altri amici che stanno ascoltando. Vado giù a portare il cane, dai, che se no si fa troppo tardi, non mi posso vedere la baia di Filippo. Non è vero, io ci vedo, lo tormento, grazie, mamma mia, mi ha rotto le balle. Ciao già, dai, buon fine serata con tutto. Ci sentiamo. Ciao Gianni, buona passeggiata, io sto pranzando, anzi, scusate. Se vuoi bene ti presento un po' di ragazze, ciao. Ehi, caspita, Gianni è circondato, Claudio, tre ragazze carine, col cane, senza cane. Allora che farò io la sera a portare un cane? E io proprio faccio una ragazza, ci hanno fatto una sigarettina, due chiacchiere, capite? Tu cane non ne hai, c'hai i gatti, quindi. Cane porta pelo, capite? È vero. Io ne ho conosciuto un po' di gente, anche donne e ragazze col cane, si attacca subito al bottone, no, capito? Dicono, che bello, che razza è, tutto quanto, non si attacca al bottone così. Quei gatti con chi attacca il bottone? Con i vecchi, con i tardoni. ma Marco c'ha i gatti in Antalì, capito? Quindi, io ci sono cani, quindi, ma vabbè, lo conoscono tutti, poi è da un bel che ce l'ho porto, e quindi sono belli di persone, anche grandi, da mia età, c'è problema. Ma dimmi cosa ho compito adesso, non c'è scritto, non riesco a trovare quel nodo che c'avevo. Mi ricordo che era Golf G, ricordo, ma stavo controllando tutti i golf. Questo sì, funziona bene, è completissimo, però è troppo mucchiato. Quello là era bello, era molto bello quello là. E allora quando rientra Stefano, intanto ce l'ho salvato io, capito? Ce l'ho salvato su una cartella, lo faccio prendere da lì. A proposito, posso andare a prenderlo da lì? Ci deve essere lì il nodo. Sì, ma l'ho salvato un altro proprio. Vado lì adesso, guardo perché questo sta funzionando perfettamente, noi lo completo, ci siamo anche i, non so se l'hai visto, vedi, i gradi della direttiva, tutto, in contemporanea, nominativo, tutto, anche i gradi della dove gira l'antenna eccetera, però non mi piace perché è troppo mucchiato. Capite? Dopo un piatto. Sono Bonisos, ma non è da dire. Sierra 23, Francia Union Papa. A 3573. No. Peloponneso. Va bene. Ok, adesso guarda una carità. Dice il Messico anche sempre. Messico. Colombia, e c'è un po' di preparazione, 14, 18 e 80, dai, adesso guardo, mi manca un ascolto, io sono qua comunque, ragazzi. Ah, se lo mangiassi, no, ora che mangiassi l'ali, ove sta pranzando, se tu lo disturbi a foga, sai che lui mangia con le ali. Eia. Beh, signori, dai. Sta venendo un po' anche da soffiare il naso. Buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani, salvo cataclismi, comete, guerre mondiali. Ciao, ciao, ciao. Ciao Natalino, ciao Claudio.